Ad alta voce. Peppe Servillo legge Le voci di Marrakesh di Elia Scanetti. Traduzione di Bruno Nacci. Nelle altre parti del mondo i cimiteri sono allestiti in modo tale da suscitare nei viventi un senso di felicità. Sono pieni di vita, ricchi di piante e di uccelli, e il visitatore, unico essere umano tra tanti morti, proprio da questo si sente rallegrato e rinvigorito. La propria condizione gli appare invidiabile. Sulle pietre tombali legge i nomi delle persone. A ciascuno di costoro egli è sopravvissuto. Senza confessarselo, ha quasi la sensazione di averli vinti uno ad uno in duello. È triste, sicuro, per tutta quella gente che non esiste più. Ma proprio per questo si sente invincibile. Da che cosa, altrimenti, può derivargli una simile sensazione? Su quale campo di battaglia al mondo potrebbe essere l'unico sopravvissuto? Sta in posizione eretta, è l'unico in piedi tra tutti questi che giacciono supini. Anche gli alberi e le pietre tombali, però, stanno eretti. Gli alberi piantati e le lapidi erette lo circondano come una specie di eredità, espressamente destinati a fargli piacere. Su questo deserto cimitero degli ebrei, al contrario, non cresce nulla. Esso è la verità stessa, un lunare paesaggio di morte. All'osservatore non importa affatto di sapere chi giace sottoterra. La cosa gli è cordialmente indifferente. Non si china e non cerca di scoprirlo. Qui sono tutti ammucchiati, come fossero macerie, e si vorrebbe scappare via in fretta, come sciacalli. È il deserto di uomini morti, sul quale non cresce più nulla. L'ultimo estremo deserto. Mi ero già inoltrato per un buon tratto quando udii dei richiami alle mie spalle. Mi voltai e mi fermai. Addossati al lato interno del muro, vicino al portone, c'erano altri mendicanti. Erano uomini vecchi, barbuti, alcuni con le stampelle, altri ciechi. Rimasi sorpreso, perché prima non li avevo notati. La mia guida aveva avuto molta fretta, sicché tra me e loro c'era sicuramente una distanza di 100 passi. Fui incerto se ritornare indietro per la strada deserta prima di spingermi oltre. Essi, invece, non esitarono. In tre si staccarono dal gruppo presso il muro e, zoppicando, si diressero verso di me a tutta velocità. Il primo di loro era un uomo pesante, con larghe spalle e barba imponente. Aveva una gamba sola e si era lanciato in avanti con impeto sulle sue stampelle. Presto si distanziò dagli altri. Per lui le basse pietre tombali non erano un ostacolo. Le stampelle toccavano il terreno sempre nel punto giusto e non gli slittarono mai sulle pietre. Si avventò su di me come un vecchio e minaccioso animale. Nel suo volto, che si stava rapidamente avvicinando, non c'era niente che destasse compassione. Quel volto, come del resto tutta la sua figura, esprimeva un'unica impetuosa richiesta. «Io vivo, dammi qualcosa!» Provai l'inspiegabile sensazione che egli, con il suo peso, volesse ammazzarmi. Era molto inquietante. La mia guida, un uomo sottile e leggero, che si muoveva con l'agilità di una lucertola, mi trascinò lontano, prima che quello mi raggiungesse. Non voleva che facessi l'elemosina a quei mendicanti e gridò loro qualcosa in arabo. L'uomo pesante sulle stampelle cercò di raggiungerci, ma quando si rese conto che noi eravamo più veloci, desistette e si fermò. Lo sentii imprecare furiosamente, ancora per un buon tratto, e gli altri mendicanti che gli erano rimasti indietro unirono la loro voce alla sua in un coro malvagio. Provai un senso di sollievo per essere sfuggito a quella gente. E tuttavia mi vergognai di avere inutilmente risvegliato le loro aspettative. L'attacco del vecchio con una gamba sola non era stato respinto per mezzo delle pietre, certamente familiari sia a lui che alle sue stampelle. era fallito soltanto grazie alla prontezza della mia guida. Per il fatto di aver vinto questa impari corsa, non c'era proprio da essere fieri davanti a Dio. Poiché volevo sapere qualcosa su quel povero uomo del nostro nemico, rivolsi alla guida alcune domande. Egli non capì una parola e infatti non rispose, ma in compenso si allargò sul suo volto un ebete sorriso. Quindi disse «Oui», poi lo ridisse. Non la finiva più con quel suo «Oui». Non sapevo dove mi stava portando. Ma il deserto, dopo l'esperienza del vecchio, non era più tanto deserto. Era lui il suo legittimo abitante. Una guardia campestre di quelle nude pietre, delle macerie, delle ossa invisibili. E invece avevo sopravvalutato la sua importanza. Infatti, poco dopo, mi imbattei in un intero popolo che si era stanziato qui. Dietro una piccola altura, svoltammo in un avvallamento e tutto a un tratto ci trovammo davanti a una minuscola cappella. Fuori, in semicerchio, avevano preso posto una cinquantina di mendicanti, uomini e donne confusi insieme, affetti da tutte le infermità possibili e immaginabili, una specie di tribù al completo, costituita però in prevalenza da persone anziane. I mendicanti erano seduti per terra, in gruppi variopinti, e ora si mettevano in movimento a poco, non troppo in fretta. Iniziarono a mormorare formule di benedizione e ad allungare le braccia, ma non mi giunsero troppo vicini prima che io avessi varcato la soglia della cappella. Vidi un piccolissimo ambiente, di forma allungata, nel cui interno ardevano centinaia di candele. Erano infilate in piccoli cilindri di vetro e galleggiavano nell'olio. Essendo in gran parte disposte sopra tavoli di altezza normale, si poteva guardarle dall'alto, come un libro da leggere. Una piccola parte di esse era sospesa in grandi vasi che pendevano dal soffitto. Ad ogni lato della stanza c'era un uomo, chiaramente incaricato di recitare le preghiere. Sui tavoli vicini agli uomini erano sparse alcune monete. Indugiai sulla soglia perché non avevo portato un copricapo. La guida si tolse il suo berretto nero e me lo offrì. Me lo misi in testa, non senza un certo imbarazzo, perché era molto sporco. Quelli che davano il via alle preghiere mi fecero un cenno e io procedetti in mezzo alle candele. Non mi presero per ebreo e così non recitai neanche una preghiera. La guida indicò le monete ed io compresi ciò che dovevo fare. Mi fermai pochissimo. Provai soggezione davanti a quel piccolo ambiente nel mezzo del deserto, pieno di candele, fatto solo di candele. Sprigionavano quiete e serenità, come se nulla potesse finire del tutto finché bruciavano le candele. Forse quelle tenui fiammelle erano ciò che rimaneva dei morti. Ma si avvertiva là fuori, vicina e incombente, la focosa esistenza dei mendicanti. Tornai di nuovo fra loro. Adesso veramente si stavano mettendo in moto. Si strinsero attorno a me, da ogni lato, come se temessero che io trascurassi la loro infermità. E tutte me le portarono vicino. Ognuno mi portò la sua, in una sorta di danza piena di abilità, certo, ma anche estremamente violenta. Mi afferrarono un ginocchio e mi baciarono il vestito. Benedicevano, così mi parve, ogni singolo punto del mio corpo. Era come se tutte quelle persone insieme mi implorassero con bocca e occhi e naso, con braccia e gambe, con stracci e stampelle, con tutto ciò che avevano, con tutto ciò di cui erano fatti. Ebbi un senso di terrore e tuttavia non posso negare che fui anche molto commosso e che in quella commozione ben presto il terrore svanì del tutto. Non mi era ancora mai successo che degli uomini mi venissero fisicamente tanto vicino. Dimenticai la loro sporcizia. Di quella non mi importava più niente. Non pensai ai pidocchi. Sentii come può essere seducente lasciare che il proprio corpo vivo sia smembrato per il bene dell'umanità. È un sacrificio che appare degno di una immane tremenda venerazione ed è certo capace di fare miracoli. Non potrebbe non essere. però la mia guida fece in modo che io non restassi nelle mani degli indicanti. I suoi diritti avevano la precedenza sui loro, e ancora io non li avevo soddisfatti per niente. Non avevo abbastanza spiccioli per tutti. Con urli e imprecazioni, egli scacciò gli inappagati e mi trascinò via per un braccio. Quando la cappella fu alle nostre spalle, benché io non gli avessi domandato nulla, mi disse per 3 volte «Oui», con quel suo ebete sorriso. Quando al ritorno rifeci la stessa strada, il mucchio di macerie mi parve diverso. Ora sapevo dove si erano concentrate la sua vita e la sua luce. Il vecchio che stava dentro al cimitero, presso il portone, quello che aveva iniziato la gara sulle stampelle con tanta energia, mi guardò con aria truce, ma non disse nulla. La sua maledizione se la tenne per sé. Uscii dal portone del cimitero e la mia guida scomparve con la stessa rapidità con cui era venuta, e proprio nello stesso punto. Forse viveva in una fenditura di quel muro, e da essa usciva di rado. Scomparve, ma prima ricevette ciò che gli spettava, e in segno di commiato disse «Oui». Cantastorie e scrivani. Il seguito più vasto ce l'hanno i cantastorie. Intorno ad essi si formano i gruppi più densi e più assidui. Le loro esibizioni durano a lungo. Gli spettatori che stanno accovacciati per terra formano un primo cerchio e non si rialzano tanto in fretta. Altri, in piedi, formano un secondo cerchio. Anch'essi si muovono pochissimo, pendono affascinati dalle labbra e dai gesti del cantastorie. A volte 2 uomini recitano a turno. Le loro parole vengono da lontano e restano sospese nell'aria più a lungo di quelle dei comuni mortali. Non capivo nulla e mi sentivo come messo al bando, eppure mi tenevo a portata della loro voce. Erano parole senza alcun significato per me, gettate fuori con impeto e passione, ma erano preziose per colui che le diceva e ne era orgoglioso. A me pareva che egli le disponesse sempre secondo un ritmo assai personale. Ogni volta che si interrompeva, ciò che diceva poi risultava più incisivo, più elevato. Di alcune parole avvertivo la solennità e di altre la malizia nascosta. Dalle lusinghe ero allettato come se fossero indirizzate alla mia persona e nei pericoli avevo paura. Tutto era tenuto sotto controllo. Parole di fuoco volavano lontano, ma non più di quanto volesse il cantastorie. Un'atmosfera eccitata sovrastava gli spettatori e uno come me, per poco che capisse, sentiva fremere la vita nella mente di coloro che ascoltavano. In onore alle loro parole, i cantastorie erano vestiti in modo appariscente. Il loro abbigliamento si distingueva sempre da quello degli ascoltatori. Amavano soprattutto le stoffe più preziose. Alcuni si presentavano in velluto azzurro, altri in velluto marrone. Avevano l'aria di personalità eminenti, ma come di fiaba. Raramente rivolgevano lo sguardo agli uomini da cui erano circondati. Tenevano gli occhi fissi sui loro eroi e sui loro personaggi. Quando il loro sguardo cadeva su qualcuno che era sempre lì, questi certamente si sentiva uno sconosciuto, un uomo qualsiasi. Gli stranieri, per loro, non esistevano affatto, in quanto non cadevano sotto il dominio delle loro parole. All'inizio mi rifiutai di credere che essi avessero per me un interesse così scarso. Mi sembrava troppo insolito per essere vero. Dunque rimasi in piedi ad ascoltarli, molto a lungo, anche quando fui attratto da altri suoni in quel luogo ricchissimo di suoni. Eppure nessuno badava a me, nemmeno ora che cominciavo quasi a sentirmi di casa nella cerchia esterna. Il cantastorie, naturalmente, mi aveva notato, ma dentro il suo circolo magico io rimanevo per lui uno straniero, giacché non lo capivo. Spesso avrei dato non so che cosa per riuscire a capirlo, e spero che un giorno saprò anche apprezzare questi cantastorie itineranti secondo il loro merito. Ma nello stesso tempo ero felice di non capirli Essi rimasero per me un'enclave di vita antica, di vita intatta. La loro lingua era importante per loro, come la mia per me. Le parole erano il loro nutrimento e da nessuno si lasciavano indurre a barattarle con un nutrimento migliore. Mi sentivo fiero del potere che il loro raccontare esercitava su quelli che parlavano la loro stessa lingua. Mi apparvero come fratelli maggiori e migliori di me. Nei momenti buoni mi dicevo, anch'io posso radunare della gente attorno a me e mettermi a raccontare, anch'io posso farmi ascoltare. Ma anziché vagare da un luogo all'altro, senza sapere mai chi potrò trovare, né quali orecchie mi presteranno ascolto, anziché vivere confidando totalmente nel mio stesso raccontare, io mi sono votato alla carta. Protetto da tavoli e porte, vivo dunque come un vile sognatore, mentre loro, i cantastorie, vivono nel trambusto del mercato, in mezzo a 100 volti estranei che cambiano ogni giorno, senza il peso di un sapere freddo e superfluo, senza libri, senza ambizione e vana rispettabilità. Raramente mi sono sentito a mio agio tra gli uomini delle nostre parti che vivono di letteratura. Li ho disprezzati, perché anche in me stesso c'è qualcosa che disprezzo, e credo che questo qualcosa sia proprio la carta. Qui mi trovai ad un tratto tra poeti che potevo guardare con sommo rispetto, perché da loro non veniva una sola parola che bisognasse leggere. Eppure vicinissimo a lì, in quella stessa piazza, dovetti ammettere di aver molto peccato contro la carta. A pochi passi dai cantastorie avevano il loro posto gli scrivani. Era un luogo di grande pace, l'angolo più tranquillo della Jami Alfanà. Gli scrivani non vantavano le loro capacità, stavano seduti in silenzio, uomini piccoli e fragili, con l'occorrente per scrivere davanti a sé, che mai davano la sensazione di aspettare dei clienti. Quando alzavano gli occhi su qualcuno, lo osservavano senza particolare curiosità, e poi subito distoglievano lo sguardo. Le loro panchine erano disposte a una certa distanza tra loro, in modo che non si udisse nulla da una all'altra. Gli scrivani più modesti, ma forse erano anche i più all'antica, stavano accovacciati per terra. Qui, in un mondo tutto loro, riflettevano o scrivevano, circondati dal chiasso assordante della piazza, eppure appartati. Era come se la gente li consultasse sui propri affanni segreti. E dato che tutto questo avveniva in pubblico, gli scrivani avessero preso l'abitudine di eclissarsi un po'. Essi, infatti, sembravano quasi non esserci. Una sola cosa contava in questo luogo: la silenziosa dignità della carta. Da loro venivano uomini soli o anche coppie. Una volta vidi, sedute sulla panchina davanti allo scrivano, due giovani donne, donne velate che muovevano le labbra quasi impercettibilmente, mentre lui annuiva e quasi altrettanto impercettibilmente scriveva. Un'altra volta notai un'intera famiglia, molto fiera e rispettabile. Era composta di 4 persone che si erano sedute su 2 piccole panchine ad angolo retto intorno allo scrivano. Il padre era un robusto e anziano berbero con una splendida figura e sul suo volto si potevano leggere tutti i segni dell'esperienza e della saggezza. Provai a figurarmi una circostanza della vita che quell'uomo non fosse in grado di affrontare, ma non seppi trovarne nessuna. Egli era qui perché questa era l'unica sua incapacità. E la moglie, seduta accanto a lui, aveva un atteggiamento altrettanto notevole. Del suo volto velato, infatti, rimanevano liberi soltanto i grandissimi occhi, scuri e profondi. E sulla panchina vicina c'erano le 2 giovani figlie, anch'esse velate. Tutti stavano seduti con il busto eretto e in un atteggiamento di grande solennità. Lo scrivano, che era assai più piccolo, accolse i loro rispetti. I suoi lineamenti tradivano un'attenzione squisita, e questa era percepibile con grande chiarezza, come la prosperità e l'avvenenza della famiglia. Io li osservavo da una breve distanza, ma non udivo un suono, non scorgevo un movimento. Lo scrivano non aveva ancora iniziato la sua vera attività. Certamente si era fatto raccontare di che cosa si trattava, e ora stava pensando al modo migliore di esprimere il tutto, mediante la lingua scritta. Il gruppo appariva estremamente compatto, come se tutti gli interessati si conoscessero da sempre e da sempre se ne stessero seduti lì, in quella posizione. Esisteva fra loro una comunanza così stretta che io non mi chiesi affatto perché fossero venuti tutti. E solo dopo, molto più tardi, quando ormai non ero più in quella piazza, cominciai a rifletterci. Per quale motivo poteva essere davvero necessario che una famiglia al completo si presentasse davanti allo scrivano?